Siete all'ascolto di radioarchimede.it. E ben ritrovati con Sono solo nuvolette, io sono sempre Fulvio Gatti e questo è il programma di Radio Archimede che tutti i martedì alle 15 vi tiene compagnia parlando di fumetti, cultura pop e dintorni. Sono social anche se oggi ho dimenticato a casa perché sono un genio, quindi ho dimenticato a casa l'alimentatore del portatile, quindi ho il portatile ma è totalmente inutile, fa un po' di scenografia, pazienza. Però sono social grazie al cellulare, quindi se volete commentare, intervenire, Fulvio the Cat su Twitter. Poi c'è una pagina di Facebook, Sono solo nuvolette, c'è una pagina di Facebook anche di Biblioteca Archimede e di Radio Archimede a cui cliccare mi piace. Quindi se siete lì davanti fate 3 click in un colpo solo, ci fate contenti e siamo tutti contenti. E oggi ho il piacere di avere con me Patrizia Comino, che è una disegnatrice e illustratrice, che ho portato con me dal sud del Piemonte, perché noi veniamo dalle profondità del Piemonte, a 80 km da qui, qualcuno di più? Vabbè, più o meno. Ciao Patrizia. Ciao a tutti. Patrizia è disegnatrice, illustratrice e hai una carriera piuttosto vasta come esperienza che si è orientata più sull'illustrazione per questioni anche di... Sulla pittura anche soprattutto. Ok, dovessi dire scegliere però qual è dei vari ambiti del disegno e illustrazione quello con cui ti trovi meglio? Ma dipende, perché vado molto a fasi, a volte mi piace dipingere, a volte mi piace disegnare, a volte mi piace proprio mettermi lì, studiare dei fumetti per raccontare delle cose. Ok, perché c'è molta differenza, questo è quello che cerco sempre di dire, perché l'idea di questa trasmissione è anche dare qualche spunto di conoscenza sul fatto che ci sia molta differenza tra fumetto e illustrazione. Fumetto sono una serie di illustrazioni al limite, una serie di immagini in sequenza che raccontano una storia. L'illustrazione invece... devi contenere tutto in un solo... Sì. Contieni, un'immagine contiene la storia in sé, quindi... Esatto, e quindi anche il tempo di lavoro per realizzarle, anche gli ambiti, i mercati a cui uno si propone, probabilmente l'illustrazione ha i più ambiti di applicazione. Sì, perché c'è l'illustrazione per la moda, c'è l'illustrazione per bambini, c'è l'illustrazione per la pubblicità, insomma ci sono varie tipologie, vari target anche. Ok. Ti avvicino un pochino il microfono. Grazie. Ok. E tra le varie tecniche possibili ce n'è qualcuna che prediligi tu disegni sia in analogico che in digitale? Poi è brutto parlare di analogico, perché in realtà analogico sembra qualcosa in contrasto col digitale, quando in realtà ci sono millenni di storie dell'arte. Ci sono millenni dalle grotte in poi, praticamente, esatto. Dai graffiti fatti con le pietre. C'è una prima tecnica con cui tu hai iniziato che ancora prediligi? Sì, cioè ho iniziato con, i pennarelli quando ero piccolino, insomma le cose canoniche. Poi con la china mi è piaciuta moltissimo fino ai 20 anni, così. Mm-hmm. Poi ho dato, mi sono cimentata con la pittura, quindi olio pochissimo, però ho usato tantissimo sia acquarello, sia poi le pitture murali che si fanno con acrilici, con tempere. Ok. I pigmenti, insomma, sono moltissimi modi per esprimersi. Di per sé l'idea è comunque una rappresentazione visuale, quindi quello che hai in mente è la stessa cosa, poi sviluppi delle altre tecniche diverse per impiegarlo. Esatto, ma tu puoi anche usare delle tecniche miste. Per esempio, se non rende una cosa solo con l'acquarello perché vuoi dare spessore, profondità, allora intervieni con la matita piuttosto che con i pastelli, piuttosto che con le cere, insomma. Sì. Cioè, quindi tutte le volte che vediamo nell'indicazione di un'opera d'arte tecnica mista, mm-hmm, e si è intervenuto a posteriori con qualche altra tecnica rispetto a quella con cui si era partiti. Sì, sì, sì, ma non solo a posteriori, magari uno pensa direttamente al collage con poi gli interventi di pittura insieme, insomma. Sì. È un mondo molto libero anche. Sì. Sì, tutto al più, cioè l'unico problema è saper padroneggiarle queste tecniche, quindi l'unica maniera è proprio l'esercizio costante, lo studio, sì. Studio costante poi. Le singole tecniche hanno anche sono anche associate magari a un tipo di rappresentazione o anche tipo di emozione, ci saranno delle tecniche un po' più secche, un po' più nitide come colori, altre più... Sì, sì, sì, poi a seconda anche della personalità del disegnatore, perché ci sono persone che si esprimono meglio in maniera più precisa, metodica, quindi sono più particolareggiati i loro lavori, mentre invece io per esempio sono un'istintiva, a me piace moltissimo l'acquarello e le cose fatte di getto, molto fresche. Per cui faccio molta fatica magari nelle cose più calcolate. Certo. Però vabbè, per lavoro ovviamente sì, si adatta anche certo. a quello. Ma credo che comunque per imparare si debba sperimentare un po' di tutto. Sì, prima di tutto vabbè c'è un percorso da fare, perché è vero, l'arte è libera, però le discipline bisogna applicarle. Per cui c'è uno studio serio, c'è una disciplina anche dietro. È un esercizio costante che poi ti permette di esprimerti una volta che hai acquisito la tecnica liberamente. Ok. E nel tuo caso hai fatto anche comunque una scuola qui a Torino? Sì, di fumetto e illustrazione. Fumetto e illustrazione, sì, era un corso di 8 mesi che vabbè, sì, mi ha dato molti spunti, però comunque avevo già il background dell'artistico. Quindi già le basi del disegno le sapevo già. Ci sono i licei artistici, quindi forniscono già un po' di elementi di partenza. Ma in realtà poi alla fine, se una persona ha proprio la necessità di disegnare, ci sono molti modi per acquisire la tecnica. L'unica maniera è lo studio dal vero, la copia dal vero e la costanza. Un elemento che molti trascurano del fumetto, che però è molto importante quasi sempre, però vale anche per il disegno, che ogni volta che copi dal vero riproduci qualcosa di vero, cioè nel 90% dei casi, anche quando nell'illustrazione fantastica devi riprodurre del verosimile, anche quando non esiste, è questione di scegliere che cosa, quali linee, se è questione di tratto, quali elementi rappresentare. In realtà è un togliere, non è un mettere. Guarda, io lo definirei più un interpretare poi alla fine, perché quando avevo 15-16 anni si parte con l'idea che tu devi, non puoi copiare, è una cosa che ti sminuisce perché non metti in atto la fantasia, insomma, sembra che sia una cosa più avvilente, no? Copiare proprio così. Invece poi col tempo si impara a interpretare le cose, perché comunque se tu prendi uno studio anatomico e hai davanti una modella o un modello, il tuo disegno sarà molto più toccante, realistico e vivo piuttosto che una cosa fatta a costruzione nella tua testa. Certo. Quindi non è un abbassarsi a copiare, è un rendersi conto che la realtà va interpretata secondo il tuo modo di essere, però va interpretata, non va inventata molto spesso. Ma di per sé è tutta interpretazione. E potremmo addirittura esagerare e dire che anche la fotografia, che in realtà è una cattura meccanica della realtà, però è passata attraverso l'interpretazione. Eh sì, molto spesso le foto più belle raccontano, e per raccontare ci vuole una testa, una mente, un'anima dietro che coglie quel momento lì. Con il cuore, diciamo, non con la tecnica. Esatto, perché anche in quel caso scegli la cornice, scegli che cosa rappresentare, cosa mettere in primo piano, in secondo. Sì. E il fumetto forse è il più complicato di questi linguaggi, perché utilizza elementi di tutte queste arti. Nel fumetto devi scegliere la cornice, devi scegliere il primo piano, il secondo piano, ma anche la tecnica, anche realizzarli effettivamente. Sì, poi comunque ci sono gli elementi che ti servono a raccontare una determinata cosa e altri invece che non servono, quindi sta al disegnatore poi valutare che cosa mettere in primo piano oppure no. Poi vabbè, ci sono gli sceneggiatori che ovviamente in molti casi nella collaborazione lo sceneggiatore già ha, diciamo, il filtro, perché attraverso le sue parole tu più o meno sai dove orientarti, però quando lo fai in maniera autonoma e comunque hai un filtro molto forte che devi esercitare tu stesso, per cui devi padroneggiare un pochino le tecniche in più. Anche la scrittura, anche perché comunque le parole sono importanti nel fumetto, però devono avere lo stesso peso del disegno. Esatto, questo mi è già capitato di dirlo anche in questo programma, che il maestro in questo nello studio del fumetto è Scott McCloud, e Scott McCloud ci ha fatto notare che tu togli le parole da un fumetto, è ancora un fumetto, togli le immagini dal fumetto, diventa prosa. Quindi in realtà la cosa più importante del fumetto sono le immagini. Noi siamo abituati a una codifica della lettura del fumetto, per cui le parole vengono interpretate anche grazie a quello che c'è nelle nuvolette, cioè le parole dei personaggi, ma non è scontato che sia così. No, infatti. Il fumetto stesso nasce come immagini commentate nelle incisioni, nelle sue versioni più antiche. Sì. Sono poi immagini, è vero, in sequenza, che già di per sé devono raccontare una storia. Le parole non devono essere un sovrappiù, devono essere, diciamo, un appendice che però non... aggiunge, non toglie. Devono far parte del fumetto. Sì, sì. Quindi l'eterna lotta tra sceneggiatori e disegnatori, sì, non deve essere, perché in realtà stanno collaborando per... Sì, raccontano, il fine ultimo è la storia poi. Esatto, per raccontare la storia nella maniera migliore possibile. E nel caso del fumetto comunque narrativo, nel modo più invisibile possibile, che quasi non ti accorgi che qualcuno ti sta raccontando una storia e che c'è una scansione tra le vignette. Ma effettivamente poi a livello proprio grafico, nelle scuole ti insegnano, quelle serie diciamo, ti insegnano che il contenuto del balloon ha un peso anche a livello grafico, per cui deve essere gradevole, certo. Deve essere gradevole, a parte il lettering che deve essere gradevole nell'insieme. Sì. Però proprio un peso come una mezza tinta, per cui è un colore a tutti gli effetti. Tu metti tante parole, fai dei balloon particolarmente verbosi, è fastidioso proprio alla vista. Esatto, è probabilmente più faticoso la lettura, certo. E comunque meno riduci l'esperienza di lettura del fumetto a una, sì, lettura tout court, che forse danneggia il linguaggio in sé del fumetto. Sì, sì, deve essere una cosa scorrevole, armonica, già armoniosa, per cui bisogna fare molta attenzione al peso anche delle frasi e le parole. Certo. Beh, torniamo a parlare di fumetto, poi ampliamo, visto che dopo tutto ci chiamiamo solo nuvolette. Ogni tanto abbiamo già spaziato con gli ospiti, abbiamo già avuto uno scrittore, dei fumettisti, ma anche altre figure, il direttore della Scuola Internazionale di Comics, un traduttore, quindi non sempre ci ritroviamo a parlare di fumetto propriamente come il nome della trasmissione vorrebbe, quindi torniamo poi dopo la pausa a parlare del fumetto, del linguaggio del fumetto e dei fumetti fatti da Patrizia. E adesso mandiamo la prima canzone. Scegliamo, oggi ho fatto una playlist un po' anche con le dritte di Patrizia. Questa volta è la prima volta che lascio un po' scegliere anche all'ospite le canzoni. È questione di culture musicali anche che in parte di passioni e culture musicali che in parte collidono nel nostro caso. Sì, è vero. E il primo pezzo è dei Fleetwood Mac, si intitola Don't Stop, ed è un inno all'ottimismo, visto, sì, che sono tempi un po' grigi, ma forse no, un po' troppo ci sentiamo dire che tutto va male, ma non necessariamente così. Non smettete di guardare al futuro. E questi erano i Fleetwood Mac, Don't Stop Thinking About Tomorrow, e noi siamo sempre su Sono Solo Nuvolette. Io sono Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, e stavo scoprendo adesso di aver che la mia ospite Patrizia Comino ha anche lei l'account Twitter, però non ci siamo trovati digitalmente. No, non ancora. E Patrizia è illustratrice, fumettista, e nel discorso che stavamo facendo poco fa prima della canzone stavamo cominciando a parlare di fumetto come linguaggio e anche dei fumetti che lei ha fatto. C'è un progetto a fumetti a cui sei particolarmente legata, che hai fatto, da cui vuoi partire? Accennare? Devo partire, dunque avevo fatto un webcomic tempo fa, insomma ho fatto dei piccoli fumetti soprattutto per enti, regione, eccetera eccetera, su commissione. E beh, questo è interessante comunque, perché il fumetto è anche un ottimo linguaggio comunicativo. Sì, sì, infatti me le richiedevano più che altro per quello, perché anche nelle scuole, insomma, questi progetti. Però proprio, sì, a cui sono affezionata, sì, vabbè, c'era la collaborazione con Marco Alvoletta, Penelope, già, che abbiamo presentato anche a Luca anni fa. E poi c'era questo fumetto webcomic di Patti Cuore, che era un target di 14 anni più o meno, ragazzini di 14-18 anni, che mi divertiva a fare come una specie di diario di un adolescente. Da lì poi hanno incuriosito queste tavole anche altri disegnatori come Roberto Totaro, giornalisti come Max Olla, che mi hanno chiesto di collaborare a delle strisce che hanno pubblicato su Balloons per un po' di tempo. Patti Cuore era la posta di Patti Cuore, però era la versione dissacrante semiseria praticamente. Ok, ok. E poi da lì ho cominciato a lavorare anche come colorista, poi ho fatto l'autrice di pezzi comici, perché scrivo anche per il comics del 20° anno, che è uscito a Lucca in edizione speciale nel 2011. Poi ho lavorato sempre, fino adesso, come illustratrice, colorista, anche per la moda, eccetera, eccetera. Ok, ok. Quindi progetti sono stati parecchi. Poi ultimamente hai rallentato un po' la carriera professionale, perché... Sì, sì, ho avuto due figli, quindi insomma... Che forse ci stanno ascoltando, abbiamo dato istruzioni ai nonni, vediamo un po' se sì, le istruzioni sono state date. Speriamo, sì, ma comunque vabbè. E adesso, tra l'altro, c'è anche oggi una ricorrenza speciale anche, sì, tra l'altro. È il terzo compleanno di mia figlia Anna, ne approfitto per fargli tanti auguri. Ok, ok. E quindi parlando di figli e fumetti ti danno il tempo ancora di disegnare? Allora, ho avuto un attimo di pausa perché comunque è veramente impegnativo fare la mamma e io, dato che lavoravo a casa, insomma, le spese per gli asili sono tante, eccetera, eccetera, ho mollato un pochino il lavoro per seguire i bambini, poi comunque mi ha fatto piacere perché, insomma, passo molto tempo con loro e li vedo crescere. Però è impegnativo, sì, perché insomma è stato pesante anche, diciamo, dimensionare tutto. Ma quando loro ti vedono disegnare, hanno già preso l'abitudine che la mamma disegna? Sì, hanno preso l'abitudine, però per loro è un lavoro come un altro, per cui tutto ciò che li sottrae, cioè che mi sottrae alla loro attenzione, allora non sono contento. Diventa negativo. Okay. Eppure dovreste fargli vedere, fai capire loro. Leonardo, Anna, dovete capire quanto è brava vostra mamma, ecco. No, no, ma loro, Leonardo soprattutto, che lo vedesse in prima elementare, mi dice: mamma, sei brava a disegnare, guarda il disegno che ho fatto io, eccetera, eccetera. Però siccome è un lavoro e questo lavoro per me è molto appassionante, per cui non faccio fatica a farlo. E loro lo vedono come un ostacolo, diciamo. No, io voglio stare con mamma, voglio giocare con mamma. Vabbè. Ci sta, eh. Vabbè, poi quando cresceranno un po' di più ti leggeranno anche volentieri. Ma penso. Io lo spero sì. Perché, insomma, anche per loro, perché non solo fumetti, perché leggere comunque ti apre la mente, ti fa viaggiare, ti fa crescere anche. Esatto. Quello che mi piacerebbe fare anche con questo programma è un discorso culturale in senso stretto, cioè tutto ciò che è cultura, tutto ciò che è vivo, tutto ciò che ci comunica emozioni. Sì. E in questo molto fumetto per noi, per te, per me, per tante persone che ci ascoltano, che spero ci ascolteranno, il fumetto è ciò con cui siamo cresciuti, insieme magari anche a narrativa popolare, insieme ai romanzi di avventura o romanzi di fantascienza. Sì. Tanta forma di cultura viva che ci ha dato emozioni a cui siamo molto legati, e quindi viva la cultura viva. Sì, mi sono impantanato. Okay. No, beh, ogni volta che parto con i panegirici mi metto a fare discorsi politici. No, sì, è troppo roba seria. Troppo seria, infatti. E invece, tra i progetti fumettistici c'è anche Patticuore, che è un discorso di striscia. Il linguaggio, sì. La striscia fumetti è ancora un sottogenere del fumetto. Molto semplice come fruibilità, ma molto più difficile molto come realizzazione. Molto complicato, perché in realtà io non sono nata come disegnatrice di strisce, mi hanno arruolato perché, diciamo, che nell'entusiasmo generale di Balloons, che era un sito molto frequentato, diciamo, c'erano questi disegnatori cavezzali, c'era Ciantini, insomma, un po' di gente che lavorava per il comics negli anni 90. Tutti i disegnatori che sono partiti dalle strisce hanno fatto per anni e anni strisce. E quindi io mi sono trovata lì in mezzo, tutti mi dicevano: ma tu ti disegni bene, poi fai le battute, prova a fare strisce. Ma non è così immediato, le vignette magari sì, perché il disegno e la battuta sono insieme. Sì. Però la striscia è già un altro tipo di meccanismo, perché tu in tre o quattro, diciamo, spazi o vignette devi fare una piccola storia che porti una battuta che non faccia solo ridere ma anche riflettere, che non sia una questione soltanto di satira, perché di solito i vignettisti, cioè i disegnatori di strisce, non fanno satira. E quindi è molto difficile trovare delle tematiche magari di tutti i giorni che possano farti vedere la vita di tutti i giorni in un modo più, in modo diverso. Sì, c'è stato un po' di revival delle strisce anche per via di internet. Per noi il contenitore per eccellenza per l'Italia delle strisce è Linus, che compie tra l'altro quest'anno 50 anni. Sì, sì, sì. E poi anche comics, però proprio il fatto stesso che siano fumetti molto brevi di rapida fruizione li ha fatti un po' rinascere sulla rete. Sì, sì, perché comunque è una lettura rapida e insomma di uso e consumo. Però dietro c'è uno studio veramente enorme, perché devi limare, trovare il ritmo, le battute giuste, mettere insieme anche disegno semplice e battuta che sia fruibile, insomma. C'è un mondo dietro. E Patticuore parlava, era un discorso di adolescenza principalmente, anche per allora, ma tu parli della versione striscia o versione... Ah, fumetto? Ok. Perché ne ho fatte due versioni. Perché tutte e due? Era un casino. Insomma, allora, la versione striscia poi alla fine era questa finta lettera, si apriva con una finta lettera, sempre scritta da me, di una persona disperata che, non so, per esempio, il mozzo Barba Fiorita... che era disperato perché era innamorato del suo capitano, che però non lo corrispondeva, eccetera, eccetera. E sotto c'era la risposta di questa patticuore in striscia. Dunque c'era questa casalinga disperata dietro, cioè tutti pensavano che fosse una che saggia, dà delle risposte del cuore, cioè queste cose qua. In realtà era una casalinga disperata dietro a un computer con un marito praticamente che la criticava sempre, ma non si vedeva mai. E questo figlio, perché allora avevo un figlio solo, poi sarebbe subentrata anche Anna, e questo figlio tremendo che litigava con il gatto, faceva le partite a scacchi con il gatto, oppure si ammazzavano, oppure non lo so, facevano il duello con le spade laser. Il sottofondo, quindi praticamente c'era la lettura del pezzo, poi c'era la striscia della protagonista e in sottofondo c'erano le avventure del gatto che si ammazzava con il figlio. Quindi c'era triplo livello. Beh, come linguaggio già c'è è prosa più fumetto, più striscia. Sì, ho fatto un macello. E tutto questo penso che nasca dalla parodia delle varie poste del cuore, le varie rubriche, esatto. Da cioè in avanti. Sì, che noi donne conosciamo molto bene. Esatto. Perché anche se paventiamo l'autonomia, tutto quanto, però alla fine la scorsa alla posta del cuore la facciamo sempre. Vabbè, certe cose basta confessarle, come forse un po' a volte il calcio, le automobili per gli uomini, capita, non bisogna vergognarsi. Sono quei punti di debolezza, tipo l'oroscopo della settimana. Esatto, poi sì, qui andiamo altro che nella cultura pop, stiamo un po' finendo nel trash. Nel trash, però penso che ci fosse tutto un discorso interessante anche sull'ibridazione tra i vari linguaggi. Questa era una, lo pubblicavi su internet, era una specie di striscia, però composita. Ancora, ci sono ancora le mie strisce su Balloons, se volete cercarle, fatti cuore. Vuoi dire l'indirizzo? È balloons.... adesso lo ricordo. Vabbè. Balloons.net mi sembra. .net, sì. Patticuore, ok. Balloons con due L e due O. Ok. E poi da questo si è evoluto nella striscia semplice? No, perché poi alla fine è stato solo una parentesi, perché poi ho avuto altre cose da fare, quindi non riuscivo a seguire tutto quanto, tra bambini. Infatti, quindi si è poi interrotto il discorso, però è stata un'esperienza per me anche formativa, divertente, quindi la ricordo con piacere. Sicuramente qualcosa di particolare, poi denuncia in positivo una voglia di sperimentare anche nel linguaggio, e penso che quello si possa fare solo padroneggiando la tecnica. Quello sì, perché comunque io avevo già una quindicina d'anni di esperienza di varie cose, per cui insomma poi non ti sarebbe venuto in mente di mescolare questi vari elementi in senso ironico, non avessi più o meno padroneggiato le singole componenti. Ma poi penso che sia anche una questione di background, perché tu per avere anche delle cose da dire devi anche aver letto, visto film, insomma, esatto. Avere degli agganci, sì il calderone per pescare, il calderone, esatto. Della cultura pop, in realtà ci creiamo le radici con quello che vediamo, soprattutto poi anche in certi anni formativi, esattamente, e certe cose ci rimangono ma attaccate, ma anche per quello che bisogna essere curiosi, perché insomma poi queste cose te le porti dentro a vita. Esatto. Poi parliamo anche di influenze, questo ce n'è anche da dire. Ma nel senso di raffreddore? No. Anzi, la stagione purtroppo è quella giusta, ma influenze nel senso di personalità, opere d'arte influenti e come noi le interiorizziamo, mangiamo e poi produciamo. Sì. Non è bello così. Non la riutilizzo questa metafora perché ha dei brutti sottotesti, quantomeno. Sì, sono naturalissimi, però per carità, cioè. Mettiamo la prossima canzone prima che di coprirmi nuovamente di contumelia che qui... Ora vado a cercare su Google contumelia. Anche in questo Zio Paperone e molti autori Disney. Bellissimo. Sono stati importantissimi per imparare tante parole arcaiche che venivano utilizzate. Sì, com'era. Esatto. Che insomma. Esatto, e questo era il paperino degli autori Disney italiani. Sì, esattamente. Poi torniamo a parlare anche di questo. Molto volentieri. Dopo però tutti questi paroloni passiamo a un pezzo bellissimo, affascinante, poetico. Possiamo usarne ancora di più, il pezzo è Blackbird nella versione Blackbird dei Beatles nella versione di Jaco Pastorius. È quasi un dispiacere tornare in onda dopo questo. Stiamo parlando di cose interessanti, però Jaco è sempre Jaco. I Beatles e Jaco. Qui stiamo parlando dei pilastri dell'universo, della bellezza sì. Nell'universo. se ci sono forme di vita nello spazio sicuramente ascoltano qualcosa del genere, o quantomeno l'umanità merita di essere salvata per aver creato qualcosa del genere. Sì, sì, sono d'accordo. E ho trovato Patrizia su Twitter, armeggiando col telefono, chiocciolina Paticomino, se volete seguirla. Sei tornata attiva su Facebook e su Twitter di recente, mi dicevi? Sì, sì, sì, perché l'ho trascurato per un po', non so, non era un tipo di linguaggio che mi era molto consono, però ultimamente ho messo dei disegni nuovi, delle illustrazioni e ho avuto un po' di seguito, quindi ho detto vabbè, allora vuol dire che... Se volete seguirla, c'è anche così il link al suo portfolio, che è Patti Comino nella pagina su Facebook. Sì. E poi c'è un patriziacomino.portfoliobox.me. Sì, sì, sì, un altro... il mio portfolio online. Ok, sì. Ok. Se volete seguire me, chiocciolina Fulvio De Cat. Io ho appena followato Patrizia. Se sei italiano, followato, vabbè. Stiamo reinventando l'italiano in senso problematico. Dopo aver detto contumelia, penso che adesso dirò io avrebbe e sbaglierò i congiuntivi. Ma sì, perché, perché a questo punto non è possibile. Parlando di lettura e di linguaggio, il fumetto Disney italiano è stato influente anche per te, quindi? Sì, moltissimo, moltissimo. Paperini. Esatto. Quello che dobbiamo dire innanzitutto è che tutti associano il fumetto Disney agli Stati Uniti, però sì. C'è stata una... i personaggi sono di creazione di Walt Disney, sì, Donald Duck, Mickey Mouse, gli originali, però c'è stata una scuola importantissima di autori italiani, attiva ancora adesso, perché Topolino è pubblicato in Italia. Sì. Di recente, prima era Walt Disney Italia, adesso da Panini Comics, c'è tutta una scuola di autori, alcuni anche qui a Torino, come Bruno Sarda, come Giorgio Figus, che nel corso degli anni hanno raccontato storie di questi personaggi e li hanno resi molto più vitali, molto più vicini a noi di quanto fossero i personaggi originali. Sì, molto caratterizzati anche per venire incontro ai gusti italiani, penso. Sì, sì, sì. Ma un personaggio in particolare che preferivi tu come lettrice? Paperino, assolutamente, okay. Ma perché ha lo stesso carattere mio, mi raccomando, così. Ok, sì, Paperino ha raccolto tanti elementi, a partire dal Paperino, comunque il Paperino dei cartoni animati ha già molte di queste caratteristiche. Sì, sì, sì, è un po'... è già irascibile, un po' pasticcione, sì, sì, sì. Testardo, e quello dei fumetti è stato arricchito nel corso del tempo di tutta una serie di altre caratteristiche, oltre a quella poi eccezionale, che però tutta italiana, nel 1969, quando Guido Martini e Giovan Battista Carpi lo hanno fatto diventare Paperinik, sì, a partire sì, da sì. In quella mitica storia del Mistero di Villa Rosa. Sì, che ho a casa, del 74 peraltro. Ok. E in cui Martini e Carpi reinventavano il personaggio di Paperino alla luce di Fantomas più che di Diabolik. Sì, sì, era un po' più, non so, forse una commistione delle due cose. Sì, un discorso del ladro gentiluomo. È qualcosa di molto particolare, perché in realtà Paperini che è diventato poi un supereroe, ma non era un supereroe. No, no, no, anzi, proprio in quell'avventura si capisce che è una cosa fatta per puro caso, trovata per puro caso, e che lui voleva attuare come vendetta personale, per cui non aveva proprio nulla delle caratteristiche del supereroe. Esatto, si chiama Paperini che il diabolico vendicatore. Sì, esatto. Ed è una rivincita che aveva il personaggio, qualcosa, c'è una certa cattiveria che non si trova più in molto fumetto commerciale. In generale, poi figuriamoci in televisione o che altro, Paperino si prendeva delle rivincite su Zio Paperone, su Rocker, sì, Duke, sì, su Gastone. Su Gastone, il cugino fortunatissimo. Ed è qualcosa di... Ma con una certa scaltrezza poi, oltretutto, quindi esatto. Cioè, che sviluppava un lato di lui che non si era mai visto. Esatto. Questo lato oscuro, diciamo, di un personaggio che... Sì, cioè, comunque era intuibile che ci fosse un lato oscuro dentro lui, perché altrimenti non sarebbe così, posso dire, incazzoso, tra virgolette. Ok, vabbè, si può parlare il francese, dai. Ok, il francese è la mia seconda lingua. Se per caso Leonardo e Anna si state ascoltando, mamma non ha detto questa parola qua. Ma ogni tanto le sentono anche a casa, anche se io le direi a bassa voce, ma loro hanno l'antenna, lo stesso. Mamma, nell'altra stanza. Sono le prime parole che imparano. Ma sì, sì, effettivamente sì. Come leggevo una cosa che diceva che, insomma, se vuoi attirare l'attenzione dei bambini non devi urlare, devi fare una telefonata, metterti sul divano tranquilla, mangiare una barretta di cioccolato, vedrai che loro arrivano subito. Infatti è proprio così. Vedi, psicologia infantile. Mammesca. Psicologia mammesca. No, veramente è proprio pura questione di sopravvivenza, perché okay. I figli ti annientano. Ok, ok. E poi sono molte, sempre parlando di fumetto Disney, c'è stato molte, molte storie, per esempio le avventure di Zio Paperone con Paperino e Cucuà in giro per il mondo. Sì. Ma un'infinità di storie. Hanno ripreso i classici, ultimamente avevano fatto anche una collaborazione con Camilleri. E insomma hanno ripreso. Sì, ma poi in tempi recenti è molto vivace Topolino come rivista. Sì. Non ho ancora combinato, ma sto aspettando e spero di poter avere qui in trasmissione Paolo Mottura, che ha appena realizzato Dylan Top, una parodia di Dylan Dog con Topolino protagonista, e L'alba dei topi invadenti. Sono molto curioso di... Paolo è un artista straordinario al servizio della Disney, ma in un ambito in cui è riuscito sempre anche abbastanza a sperimentare. Paolo disegnava anche PK. Ah, PK, bellissimo. Quella è stata un'altra piccola rivoluzione. Sì, veramente, sì. Di cui spero di poter parlare con qualcuno degli autori. Altri, invece, parlando di letture, altre tue influenze da lettrice che consiglieresti a qualcuno che muove i primi passi nell'ambito del fumetto, o ancora di più, per costruire un giusto background, perché si incontrano giovani autori, nuovi autori, dici: ma non hai letto questo, ma com'è possibile? Quindi, giovani autori, consigli di Patrizia Comino, cosa dovete studiare? Ma allora, principalmente non dimentichiamo la pittura, che è la prima forma di fumetto, diciamo. Okay. Per cui una bella visita ai musei per vedere proprio come facevano queste persone con pochi mezzi a volte e tantissimo tempo davanti, diciamo, a fare queste opere grandiose. Sì. In alcuni casi lasciano veramente senza fiato. Sì. E poi da lì guardare, osservare, leggere tantissimo, ma non solo un genere, perché molti ragazzi di adesso ti propongono cose e hanno un background prettamente manga. Ok, i manga hanno una storia dietro che è di centinaia di anni, quindi ragguardevole, per cui cioè è un tipo di cultura che va visto, va valutato, va letto, eccetera eccetera, però quello fatto bene, quello non diciamo quello proprio, posso dire, cheap. Sì, beh, essendo un mercato molto vasto, anche numericamente più grande del nostro, ci sono vari livelli di produzione, bravissimo, di qualità, di autori. Sì, poi in Giappone leggono anche tantissimo, per cui ci sono delle tirature enormi che noi ci sogniamo proprio. Avevamo qui Massimo Sommerio la scorsa settimana, che è un traduttore e interprete del giapponese, parlava di cifre che sono veramente spaventose, esorbitanti, in positivo per noi. Però loro fanno una lettura usa e getta. Per cui bisogna valutare anche bene, perché ci sono le cose da libreria anche lì di un certo livello, e poi ci sono le cose mordi e fuggi. Sì, la differenza tra i mercati nazionali poi è sempre qualcosa che è bello da spiegare e colpisce, perché per noi in Italia abbiamo la tradizione del fumetto da edicola, e quindi è legato al grande romanzo popolare quasi di ascendenza con Salgari. E in Francia il fumetto da libreria, la costruzione dei mondi, in Giappone è qualcosa più livelli, che più livelli, esatto, è qualcosa perché che è una cosa talmente radicata nel linguaggio, il manga, che loro veramente lo usano per tutto, che poi di per sé è la parola per dire fumetto, esatto. Però è più legato al contesto, e poi forse anche la tendenza a coprire tutti gli ambiti di mercato, quindi c'è un per ogni sport esiste anche il suo manga. Sì, sì, in pratica copre veramente tantissimo, ma poi essendo lettori accaniti, ma anche, ne so, sul treno metropolitano, mordi e fuggi, sulle merendine, cioè veramente... Esatto, sì, Massimo Sommarè spiegava che c'è stato un incremento di lettura dei manga e pubblicazione dei manga perché c'erano tanti pendolari. Sì. Cioè la proporzione tra i pendolari ha incrementato il mercato dei manga, questo. Sì, poi sono anche un popolo che non è che socializzi molto, infatti usano bere molto sake prima di potersi esprimere liberamente. Sì, sì, sì, beh, queste poi sono considerazioni sociologiche ancora più complesse che rischiamo un po' di semplificare. Sì, però... no, assolutamente. Però questo ti spiega anche perché in metropolitana si leggono tutti il manga. Sì, per non parlare. Non avere magari una... Beh, c'è la stranezza che mi avevano detto che si usano le sovracoperte bianche per coprire ciò che leggi, perché il vicino non sappia cosa tu stai leggendo, per la privacy. Ah, questa non la sapevo. Che è veramente terrificante, perché cioè, il libro è il tradizionale oggetto da rimorchio per attaccare bottone, e tu non puoi neanche sapere cosa sta leggendo la vicina carina, e tu non puoi neanche contargliela, quindi... Vabbè, cioè, la classica mossa dello sgambetto potrebbe essere vabbè, in questi casi. Sì, però può finire un po' male, quindi poi proprio cominciare con la violenza. Oddio. Capito che sono tempi difficili, però... Estremizziamo. Stiamo ricadendo di nuovo nel trash, quindi è ora di un'altra canzone. Sì, mi sa di sì. E questa te la faccio presentare, quindi l'hai proposta tu. Parlavamo, perché non Steely Dan? Allora, perché non Donald Fagen? Sì. Come si intitola il pezzo che stiamo per mettere? Oddio, non mi ricordo già più. Ah, Slinky Thing. Ok. Sì. Di Donald Fagen. Donald Fagen. Consigliato da Patrizia Comino. E poi torniamo a parlare con lei, sempre su Sono Solo Nuvolette. E questo era Donald Fagen. Patrizia, hai proposto il pezzo e anche una storia da raccontare questo, anzi, di per sì. sé Donald Fagen come artista ha parecchie storie da raccontare, mi sembra di aver capito. Parecchie, perché lui è partito con, vabbè, come musicista con gli Steely Dan, ma anche prima, insomma, ha fatto un percorso. Però nei suoi dischi da solista ha voluto fare sempre delle storie, dei concept album, dove lui attraverso queste canzoni narrava delle storie ben precise. Per esempio in questo disco che si chiama Sunk and Condos, lui racconta, diciamo, delle micro storie con le canzoni dopo una tragedia, diciamo, immaginaria, dove le città sono state sommerse dai mari e questi sopravvissuti cantano le canzoni delle loro storie. Ok. Quindi c'è un discorso anche di fantascientifico. Sì, perché lui scrive molto bene, lui è appassionato di science fiction, fantascienza, insomma, soprattutto degli anni 50 e 60. Ed è proprio partito con queste cose anche nei suoi testi con gli Steely Dan. E infatti anche il nome Steely Dan viene da un romanzo anni 50, non sto a dire il significato perché pose. Però, insomma, sì, è un appassionato e scrive anche molto bene. Ok. Vedi che alla fine andiamo sempre a parare, anche con la musica, andiamo sempre a parlare in questo calderone che è la cultura pop, in cui sta dentro la fantascienza, esatto. Il fantastico, il fumetto, la musica rock, in questo caso anche qualcosa di più. Questa è, sì, più fusion magari. Più fusion, esatto. Comunque la musica pop rock, o comunque la musica commerciale, c'è tutto un discorso commerciale. Commerciale è una parola grossa, commerciale in senso che sta sul mercato. Sì, esatto. Ma che comunque ci sono degli artisti emersi, diciamo, più o meno tra anni 60, 70, 80 sì, del secolo scorso, di quello che ormai è il secolo scorso. Sì, che hanno avuto parte anche come musicisti, parte di storie da raccontare in questo ambiente. Un altro, sì. un altro l'avevo preso in considerazione per la playlist di oggi e poi lo farò sentire, David Bowie, che è un personaggio lui stesso della fantascienza. Sì, sì, personaggio, ha fatto anche parti in alcuni film proprio. L'uomo che cade sulla terra, esatto. Lui era l'alieno e Labyrinth, era il re degli elfi. Sì, sì, mi ricordo bene. E possiamo spaziare, potremmo spaziare tantissimo. E uno spunto di cui mi piaceva parlare era un discorso comunque ed è capitato anche a me, ho già fatto alcune puntate, sei la prima ospite in rosa, la prima ospite donna. A me sono anche in rosa perché ho una maglia. Ok, ok. È puramente un caso in realtà. Però mi piaceva fare ancora due chiacchiere su un discorso di... ci sono tanti più autori maschi, l'ambiente, tu ti sei ritrovata in un ambiente a prevalenza maschile, hai avuto qualche problema a inserirti nell'ambiente, oppure è stato un discorso abbastanza normale? Ci sono anche tantissime autrici, però a volte, e sembra in tante occasioni, anche nell'ambiente del fumetto che prevalgano gli uomini. È qualcosa che hai percepito anche tu? Sì, o? Sì, purtroppo sì, ma cioè, le occasioni per entrare nel mondo del lavoro, nei fumetti ci sono, se sei brava soprattutto, insomma, se sei costante, se hai una certa credibilità anche con le consegne, insomma, come in ogni lavoro bisogna essere un po' seri. Beh, certo. Però al di là di quello ci sono proprio queste differenze. Ok, e un tema interessante di cui si è dibattuto moltissimo in questi giorni su internet è questa cover censurata di Batgirl, che omaggia in un certo senso The Killing Joke. È una cover di Batgirl in cui semplicemente ci sono i volti del Joker e di Batgirl, il Joker che praticamente imprigiona, si vedono solo i volti e poco altro, è imprigionata Batgirl e lei è terrorizzata col segno del sorriso, probabilmente col sangue sul viso. È una cover che è stata ritirata in seguito alla protesta di un'associazione femminista. A me personalmente quello che ha colpito è più che altro un'idea se su Batgirl è una supereroina, perché non dovrebbe semplicemente dare un fracco di botte al Joker e basta? Sì. E tu da questo punto di vista cosa ne pensi? Vedendo quell'immagine ti ha urtato in qualche modo? C'è qualcosa di quell'immagine che ti ha colpito? Ma allora, si capisce che lui è un cattivo, quindi non può fare, diciamo, il buono, quella è la sua parte, quindi non puoi pretendere... Più psicopatico del Joker, penso che sia lo psicopatico più importante del mondo del fumetto. Psicopatico, non si può pretendere empatia. Esatto. Quello che mi ha un po' disturbato è stata proprio questa espressione da agnellino di lei, che in realtà è una che con il lato oscuro delle persone c'ha a che fare tutti i giorni, per cui dovrebbe essere quantomeno un minimo preparata o... Esatto, l'espressione. E forse è quello che è fuori luogo, sì. Cioè se è una supereroina... Il vederlo per forza come vittima è una qualche... È una stonatura. È una stonatura. Perché ci può stare che lei venga catturata dal Joker, perché comunque lui è un malvagio e tenta di catturarla, okay. Magari ci riesce con qualche metodo. Non ci sta che lei abbia quella faccia così, proprio da... come se fosse la ragazzina presa per strada. Cioè, esatto. No, non è coerente col personaggio. Esatto. E invece c'è un molto, molto dibattito sul... E il fumetto di supereroi di per sé è qualcosa che è nato per un target maschile, adolescente e maschile. Sì. E questo è un po' il problema che associa tante volte. Il fumetto è un linguaggio in cui tu potenzialmente puoi raccontare puoi mettere qualsiasi cosa, ci puoi raccontare qualsiasi cosa. È però associato nei vari mercati nazionali a ciò che si è raccontato prevalentemente. Quindi negli USA il fumetto è il fumetto mainstream è il fumetto di supereroi. Sì. Da noi il fumetto è da Topolino a Tex, quando in realtà stanno emergendo tantissimi autori che in realtà non stanno all'interno di queste gabbie. Il fenomeno di Zero Calcare, per esempio, è anche una stranezza, perché è arrivato a un pubblico di 30-40 anni che non leggevano più fumetti. Beh, è anche un bene, però è un bene relativo, perché comunque queste persone alla fine si affezioneranno a un tipo di fumetto che non rappresenta... il genere del fumetto. Sì, c'è il rischio un po' che per il pubblico di massa continui a esistere Zero Calcare e poi il resto continui a essere solo fumetto. Sì, esatto. Non si eleva la categoria o il linguaggio a sé, ma semplicemente emerge dalla il massa l'autore. Il personaggio, sì. Neanche poi si parla bene di autore, perché lui comunque è un po'... diciamo, segue un pochino delle correnti, per cui penso che magari tra qualche anno si parlerà bene di discorso di autore come Zero Calcare. Io lo auguro, perché comunque fa delle belle cose. Sì, però, Michele Rec, questo è il nome reale, è sicuramente un giovane autore di talento. Interessante, molto. Che però, secondo me, essendo adesso personaggio, poi vabbè, chissà quando passerà un pochino quest'onda, riuscirà magari a trovare una sua dimensione più personale. Esatto, quello che gli auguriamo è sicuramente riuscire a andare oltre, mantenere quella giusta lucidità, quella sì, giusta umiltà, quella giusta anche lucidità. All'interno del... Vabbè, lui è un ragazzo molto umile, molto simpatico, anche molto semplice, però insomma è un momento molto importante per lui, quindi deve stare coi nervi saldi. Esatto, esatto. E sempre un po' la percezione del successo vista dal di dentro deve essere... Bisogna mantenere la comprensione di quello che succede, anche perché poi il tempo passa, le cose cambiano. Quindi... Sì, perché appunto questi fenomeni adesso sono veramente alla velocità della luce, non sai mai... Forse è anche uno dei problemi del nostro tempo, la velocità di fruizione di tante cose. Esatto. Il tempo è pochissimo, la chiacchierata è stata piacevole e velocissima, come sempre un'ora sembra che sia chissà quanto tempo, poi metti una canzone, dici una parola, dici un'altra e il tempo fugge via in un attimo. Patrizia, ti chiedo ancora qualche consiglio, visto che avevamo cominciato il discorso poi l'abbiamo interrotto. Uh-huh. Qualche consiglio di lettura, se dovessi e banalmente la domanda può essere anche: dovessi portare su un'isola deserta solo tre fumetti, uh-huh, cosa ti porteresti? Vabbè, il Now di Brown. Ok, che è bellissimo. Ah, io a Glendillon ho venduto una copia dell'artbook di Mastantuono l'anno scorso a Lucca. Quando faccio il venditore di frigoriferi agli stand capita anche quello. Ma poi... è uscito per Bao Edizioni, tra l'altro, è un sì, titolo Bao Edizioni, sì, molto recente, sempre delle cose molto raffinate. E poi sai che non ti so dire, perché insomma ne ho letti molti e... è molto difficile scegliere, sì, qualcosa di più fondativo alle radici? Fondativo alle radici, ma è Paperini, okay. Del 74, okay. Il diabolico vendicatore, ok, la storia originale mi ha dato molto anche quella comunque. E poi non saprei, perché ci sono veramente tantissime. Parlavano di strisce, quindi direi che Blankets, okay. Ma anche Scott McCloud stesso, perché comunque un livello molto tecnico, però è molto utile per comprendere tanti meccanismi. Ma poi anche i giapponesi, insomma. Sì, la difficoltà quasi sempre nello stilare liste, nel trovare i preferiti, per chi ha letto tanto e ha un bel background, è molto ampia. Avremo comunque dei preferiti, ma poi nel momento in cui qualcuno ce lo chiede non ci vengono in mente. Sì, perché scorrono i titoli e non sai mai. Esatto, esatto. Ma poi c'è Taniguchi, Tsukasa Ojo, quello di Occhi di Gatto, praticamente. Certo. Ma insomma, Tori ce ne sono tantissimi proprio. Beh, abbiamo parlato di strisce, vogliamo dare un'ultima menzione, direi, a Charles Schulz, il papà di Charlie Brown, dei Peanuts. I Peanuts, tutti, assolutamente. E Kino. Mafalda. Ma non solo Mafalda, perché ha fatto anche delle cose, delle illustrazioni anche molto belle. Ok, prendete nota e poi vi interroghiamo su Facebook, tutte queste cose qua dovete leggerle. Sì, sì, sì. E poi la prossima settimana... Io sarò severissima se sbagliate, poi. Esatto, no. Perché il fumetto è una cosa seria. Questo programma si chiama Sono solo nuvolette, nella stessa accezione usata da Edoardo Bennato per Sono solo canzonette. Sì, ci ridiamo su, ci scherziamo su, ma noi crediamo profondamente nell'importanza di questo linguaggio e delle emozioni e delle storie che può raccontare e trasmettere. Sì. Grazie Patrizia per essere stata con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti. E io sono sempre Fulvio Gatti, chiocciolina Fulvio The Cat su Twitter. E se volete seguire il programma anche su Facebook, c'è una pagina Sono solo nuvolette, su cui il mio social network manager Eddie Pedro cura settimanalmente la pubblicazione anche su Spreaker, su SoundCloud, delle puntate precedenti. Quindi se per caso ci avete scoperto ora e volete scoprire le puntate precedenti, basta qualche click, sono in streaming, sono pronte per essere ascoltate. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre su Radio Archimede alle 15 il martedì. Sono solo nuvolette. Grazie a tutti, grazie a Giovanni in regia. E chiudiamo con un pezzo di Pino Daniele, che è un altro grande musicista che è scomparso di recente, che ci manca molto. Vi salutiamo con Pino Daniele, alla prossima settimana, sempre il martedì alle 15. Sono solo nuvolette.